Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Buon mercoledì a tutti quanti. Vabbè, diciamo che a quest'ora Kappa ormai mercoledì ha già dato il meglio di sé, quindi potresti anche risparmiarti il buon mercoledì. Ma non è detto che abbia già dato il meglio di sé, neanche il peggio. Guarda che certe notizie arrivano verso le 8, 8 e mezza e in genere sono brutte notizie. Comunque c'è ancora una bella distesa di ore prima di arrivare al giovedì, Drago, quindi godiamoci questo mercoledì pensando già al venerdì. Ah, così, schippando il giovedì. E siccome dopo il mercoledì c'è il giovedì, ma ormai sì, è come se fosse passato, tu pensi già al venerdì e al weekend ed è tutto sabato, più è vero, mercoledì ha questa fascinazione. Ho capito, è vero che c'è ancora un po' di tempo prima di arrivare alla fine della giornata, però tu pensa che tempo è questo. La maggior parte della gente tra poco uscirà dagli uffici, si troverà imbottigliata nel traffico per un numero di minuti che non possono prevedere neppure controllare. Beh, potrebbero ascoltare Strade in Diretta e calcolare così tempi di percorrenza dall'ufficio a casa, da casa all'ufficio, dall'ufficio alla pizzeria, dall'ufficio... No, perché poi vanno a casa, non vanno in pizzeria, vanno a casa a preparare il pasto con i bambini vocianti, i coniugi stressati, tutte quelle robe lì. Sì. Poi c'è il pasto con tutto quello che comporta. Tu già pensi, la parola pasto mette tristezza. Poi c'è il lavaggio dei piatti, poi c'è l'abbiocco post pasto. Il lavaggio dei piatti, c'è la lavastoviglie. Tu non ce l'hai. Non ce l'ho. E poi c'è il crollo a letto entro e non oltre le 11:30, quindi voglio dire, direi che il mercoledì... a letto... Ha letto cosa? Ha letto si dorme. Ah, appunto. E ora, bambini, ricreazione! Pifferaio di Hamelin, che invece delle pantegane fa venire tutti i piccioni, a galla. Piccioni, vero bambino Alberto? Allora, la pet therapy, oggi è la seconda ora. Com'è? Magari, piccioni. Come magari? Oggi è la seconda ora della settimana. L'altro giorno, vi ricordate che ero alla vigilia della pet therapy? Cosa è successo? E poi non è venuto. Chi? Ma chi? E Pio. Ah. Pio il piccione. Della pet therapy, grasso. Sì, la mia gola che rotola, eccetera. Perché non è venuto? È perché sta partecipando a una gara, di velocità, una gara di piccioni viaggiatori. Sono bellissimi, È stata un'idea di Gino, Sì. E Gino ogni tanto gli viene fa la genialata. Gino come lui è un fanatico di Mike Tyson. Mike Tyson, il pugile, quello che staccava le orecchie morte. Come fai a sapere queste cose? Che sono cose di tanti anni fa. Gino, ma Gino, impari, bravo. E vedi, Tyson, quel bruto, alla fine aveva un debole e allevava piccioni. Aveva un debole anche per le ragazze. Mi ricordo che è stato tipo in galera 3 o 4 volte per non le allevava sul tetto. Poi allevava tantissimi piccioni. Sì. Sul tetto della sua casa. Sì. La moliera, piena di piccioni, viaggiatori. Piena. Allora, Gino ha detto, l'ha fatto Tyson, che è un gran pugile, ma il cervello non è che... Quindi. Allora lo faccio anch'io. Sì, che anche lui cervello. Sì, anche Gino non sarà, però Gino è scaltro. Gino ha sempre in mente un obiettivo, che alla fine è stato il grano. Anche qui. Allora, dice, io scrivo Pio una competizione, no? Sì. Voglio fargli fare il piccione viaggiatore, che c'è il premio in denaro. A Pio, che io mi iscrivo, poi in qualche modo lo vincono. Ma scusa, ma Pio non ha la sifola, che a malapena cammina con la pancia? Ho capito, ditelo a Gino. Ma come funzionano queste gare, appunto? Allora, perché se sono di volo... Sono viaggiatori, insomma, fanno... Viaggiatore, allora. Ognuno porta il proprio piccione viaggiatore, nello stesso punto. Sì. Tipo, no? Cortile dell'asilo. Si ritrovano nel cortile dell'asilo Tyson, Gino il bidello... Gino bidello. E altri allevatori. Doveva venire anche Van der Holyfield, ma per via di quella storia dell'orecchio. E dice, magari vengo lì e ci scappa che mi girano i maroni. Io mordo io Tyson. Non che gliene stacca un altro. No, perché Tyson ha morso l'orecchio, questo è Van der Holyfield. Sì. Una montagna umana. Di parole. Se lo vedi, anche Tyson non è tanto pallido, però via. E quindi salì nel cortile e tutti i piccioni hanno un braccialetto. Sì. Una specie di braccialetto, di sensore alla zampetta. Alla zampetta. Tipo i braccialetti quelli dei detenuti, no? Sì. Sono vado in uscita, tu vai pure. E se scappi io so dove sei. Di solito è così. Allora, qui vanno via. E ogni piccione deve tornare alla sua gabbia. Ah, deve da lì tornare alla sua gabbia. Alla sua gabbia, sono tutti calcoli, Ma scusami, l'organizzatore sa le già. Le distanze sono diverse. Distanze, latitudini, venti. Tutto calcolato, una scienza quella del piccione viaggiatore. Certo. Quindi partono. E poi, siccome quando un piccione torna alla sua gabbia, il sensore fa pling, vuol dire che è arrivato. Sì. E il giudice capisce con la bandierina dice: ah, ha vinto il picciolo di Tyson. Ho capito. E beh, sempre. Vince sempre quello di Tyson. Se no spacca la faccia a tutti. Certo. Nessuno vuole mai dare contro Mike Tyson. Però siccome Gino e sta sempre uno più del diavolo, scaltro. Uno sta a vedere, ci vede un po' com'è. Io già ho capito. Lui allora, capito. Non vola e zoppi, che ve l'ho detto. Appunto. Però sì, al via, uè, è partito benissimo. Lo scatto d'orgoglio. Sì, ma ha girato l'angolo, non l'hai visto più. E lì Gino ha detto: uè, qui è come avere il cavallo. Ma... un ronzino che vince il derby, no? Gli altri sono volati, vabbè, ok. Ma lui non lo vedevi più. Quindi Gino era già eccitatissimo che stava già fantasticando sul premio, no? E quindi ha chiamato subito il suo concessionario di fiducia. Ha comprato un nuovo furgoncino, ha firmato 50 cambiali. E dice: tanto è qui, la vittoria ce l'ho in tasca, no? Ma sulla fiducia. Poi è scattato così, gli altri sono ancora qua. Guarda quello di Tyson, sembra un... no, zitto, perché sennò per caso sì. Ecco, bravo. Esatto. Non ha vinto, Come? Chi non? Dio non ha vinto. Così ci rovini così la testa. E anche ci hanno messo due giorni, minuto più, minuto meno. Due giorni? Sì. Ma da dove? Ma non so, ma da dove devono andare? Beh, quello di Tyson deve partire dall'asilo Stoppani, andare a Los Angeles. Los Angeles, effettivamente, un po' di tempo. È tutto relativo, no? Sì. Uno ci mette due giorni, ma vince, l'altro ci mette 10 minuti. Ma perde. E perde, perché era lì. Infatti, Pio... infatti, Pio, scusa, doveva restare lì più che andarsene via dietro l'angolo. Perché c'è andato dietro l'angolo e non è più tornato. Vabbè, l'avrà schiacciato con la macchina, succede no, piccione, come no? No, no, poi l'ha trovato, dopo 3 settimane. Voi mi chiederete, ma il sensore non serve per... Io mi stavo giusto chiedendo, ma il sensore? Come Iena Prinsky, no? Che aveva il braccialetto... comunque... Iena Prinsky, ma che riferimenti a lui passa troppo tempo con Gino Bidello? Chi capirà e telefonerà alla radio, alla segreteria telefonica, dirà: io so perché ha detto Iena Prinsky. Iena Prinsky. Hanno trovato il sensore in cucina. C'è la spazzatura. Dice: uè, e qui è qui, fuoco, fuoco, fuochino. Ma non c'era, c'era solo il sensore, il braccialetto. E non c'era nel bidone dell'immondizia. Perché sai che lui ha tutte le zampette un po'. E si è sfilato via. Sì. Qui non c'era più. Alla fine l'hanno trovato uno sgabuzzino delle scope. Alla fine lui ha fatto 6 metri. Dal punto di partenza? Con lo scatto che aveva fatto, lo scatto d'orgoglio! L'ha fatto veramente. È andato, non lo so. Poi appena dietro l'angolo e si è trovato il primo pertugio che ha trovato, che non riusciva più a respirare, si è messo lì e poi vedremo. Ma come? E vedremo. Vedremo cosa. Intanto il piccione di Tyson. Ma scusa, il furgoncino di Gino? E no, il furgoncino non c'è più. E Gino? E Gino neanche. Ma come? È in galera. E aveva firmato 50 cambiali. E ora, bambini, e tutti a casa. Ti vedo pensieroso, cosa pensi? Alla morte. Ah beh, allora ti lascio stare. Lo sbocco imperdibile, ancorché imprevedibile, di quella che chiamiamo, ahimè, vita. Vabbè, poi nonostante tutta la varietà impressionante di modalità, è la fine naturale di qualsiasi esistenza e quindi siamo... Infatti l'unica è prenderla con filosofia, come si dice. Certo, meglio che prenderla con religione. Meglio anche che con educazione fisica. E anche meglio che con applicazioni tecniche. E se la prendessimo con matematica... Vabbè, allora tutto quadra, andiamo... Perché? La morte è quadrata? No, però la bara, sai com'è, è un parallelepipedo, e allora? Sono parenti stretti. Vabbè, ma se tu potessi decidere, come vorresti morire? Ma che domande mi fai, dai, però così, a bruciapelo... A bruciapelo, cioè sul rogo, ma come Giovanna d'Arco. Ma no, sì, come sarò lavona. Sarò lavona. Non si può decidere come morire, è difficile, cioè è una cosa, è anzi, impossibile. Cioè, allora dillo a quelli che si ammazzano, loro lo decidono, no? Così è troppo facile. Io vorrei morire. Cosa c'è? Non mi sento bene. Ma non devi morire adesso. Sto scherzando. Io vorrei morire nel sonno. Ah, nel sonno? Nel sonno, di quelle ipotesi che tanti fanno. Io vorrei morire nel sonno come mio nonno. Vabbè, e non come quei tre che viaggiavano con lui in macchina, capito? Invece vorrei morire da sveglio, magari con tuo nonno che ma guida. Come no? Da sveglio? Sì, da sveglio. Per vedere i titoli di coda e cazziare sia il parrucchiere che il regista, perché ha sbagliato tutto. Ma cosa sei? Vabbè, io farei morire la mia controfigura. Quella è un'ottima idea. Solo che il film della mia vita è una produzione indipendente. La controfigura sono io, quindi non funziona. Vabbè, ma io se potessi scegliere, sceglierei una morte lenta. Una di quelle in cui le forze ti abbandonano a poco, il tempo passa senza che neanche te ne accorgi, e poi così, fine, no? Vabbè, ma mica è una morte lenta, questa è la vita. Basta avere pazienza, ci credi, basta crederci, no? Poi alla fine... Crederci al fatto che prima o poi tutti noi, compresi quelli che ancora devono nascere, dopo una vita che potrà essere stata breve o lunga, felice o disperata, piatta o divertente, anche per noi, come per tutti, arriverà il momento in cui di ognuno di noi si dirà, con aria grave e compita: è morto. Ah, siamo in allegria a questa puntata di Chiedo Asilo. Scrivete i vostri necrologi allo 02 46 52 44 95. Come che fai a scrivere a un numero di telefono?